Cantine di Franciacorta. Un saluto da Iseo, Cantina Ruggeri, 400 metri sul livello del mare, una produzione di 8.000 bottiglie all'anno. Meravigliosa vista sul lago di Iseo e vigna in posizione fortunata, sempre esposti al sole e in un clima ventilato che dona al vino profumi speciali. La cantina è guidata da un giovane, Luigi Masussi, 30 anni. Luigi che ha le idee chiare sul futuro. Diciamo che il futuro, spero di produrre anche un nuovo Franciacorta, un rosé, puntando sul Pinot Nero che secondo me in questa zona particolarmente alta della Franciacorta potrebbe avere le caratteristiche molto particolari in base proprio alla posizione, alla terra, le correnti d'aria, l'esposizione. Speriamo di arrivare entro un po' di anni a una produzione circa sulle 30.000 bottiglie. È tutto, alla prossima tappa. Vi aspettiamo al Festival Franciacorta in Cantina il 18 e il 19 settembre 2010.